Io vorrei fare una piccola parentesi rispetto anche alle cose che diceva Pietro, solamente per far memoria sulle vicende di allora. Qua ci sono parecchi giovani, ovviamente ho ricordato a volo d'uccello che la nostra provincia, come un po' tutto il Veneto, che adesso è una delle regioni assieme al Friuli, il Trentino per altri motivi, quelli perché hanno prebende di finanziamenti statali ingiustificati, nel senso che questa regione di statuto speciale aveva un senso 50 anni fa, oggi un quadro politico attento di qualsiasi parte dovrebbe avere il coraggio di chiudere questa esperienza, che costano cose immense di PIL a tutti gli italiani. Però coscienti, parlo della mia organizzazione, che le vicende si andavano mutando e tenendo conto, soprattutto in Vallata, la Marzotto era l'azienda leader da un punto di vista occupazionale, si diceva a tutti, per carità, Marzotto si stava anche male, però si stava peggio fuori, e che comunque la Marzotto era un'azienda di riferimento importante per generazioni di persone. Però ci rendevamo conto già fin da allora che se non si trovava uno sbocco ad attività diversificate e sostitutive al settore tessile, le questioni potevano precipitare. C'è stata una legge che è nata qua, la sede delle Acli e i Due Mori, più anziani si ricordano che c'era la sede delle Acli e l'albergo Due Mori davanti alla chiesa. C'è stata una riunione promossa dalla CISA, da Federtessile allora, alla quale hanno partecipato i parlamentari vicentini di allora, parlo del 66, e dove avevamo affrontato il problema della necessità di fare una legge di sostegno per le attività sostitutive nelle aree tessili. C'è stato il senatore Oliva, Pietro, che era senatore dell'area di Valdagno Schio, che si è fatto carico, è stato sottosegretario. Comunque la legge è venuta fuori nel 1970, da 1101, che è valsa per tutte le attività tessili che collocavano e venivano collocate sostanzialmente da Biella al Vicentino, sostanzialmente, cioè nelle vallate bergamasche, piemontesi e lombarde, sostanzialmente bergamasche, per dire cose come questo, che c'era in noi perlomeno la consapevolezza che se non si creavano elementi di sbocco c'era la possibilità di arrivare ai punti di deflagrazione. Io sono sempre stato del parere, chi ha lavorato con me per tanti e tanti anni sa che non sono mai stato un incendiario, però sono sempre stato un pompiere di quelli che appena vedevano dei fuochi accendersi preferivo spegnerli prima che venissero a scappare di mano, sempre per il discorso che si sa dove si parte mai dove si finisce. La vicenda che diceva Pietro delle trattative, della difficoltà, l'abbiamo vissuta tutti, sono stati anni di un lavoro improvvimenso, però bene o male ha creato una condizione di riapristinare i rapporti. Qua bisogna ricordare un amico carissimo reciproco, insomma, che allora con Pietro ha avuto, direi, l'incarico maggiore da parte dell'azienda per stabilire un dato di credibilità reciproco tra azienda e organizzazioni sindacali e lavoratori. È stato Romano Basso, che è un valdagnese puro sangue anche lui, e ha lavorato per molti anni i rapporti col personale per creare una condizione di credibilità. E sono d'accordo, il problema maggiore in quegli anni, parlo del 69, 70, 71 e avanti, è stato il lavoro di ripristinare un rapporto di credibilità e cercare di far passare alla svelta quella buriana sindacale che c'era in tutta Italia, quella del salario variabile indipendente. Poi le cose camminano anche però, perché le cose camminano con le gambe di uomini. I dirigenti sindacali sono cambiati e ci sono state aperte prospettive anche diverse e un dato di collaborazione unitaria che ha durato anni e ha portato anche risultati estremamente importanti. Io mi ricordo che quando che Pietro ha preso il comando dell'azienda, nel 71 mi pare, ci ha convocati, eravamo giù nella sala rossa da basso, e ci ha fatto un discorso molto fuori dai denti. Dice: io ho in mente di cambiare la situazione dell'azienda. Propongo, se il sindacato è d'accordo, se ho comunque il dovere di andare avanti lo stesso, una fase di investimenti, si parlava allora nell'ordine di una ventina di miliardi, se non sbaglio, parliamo nel 70-71, e voglio capire cosa ne pensate voi. E noi, bisogna dirlo con molta franchezza, che tutte e tre organizzazioni abbiamo detto è una proposta importante e interessante, vogliamo affrontare la sfida insieme. Ha voluto dire le cose che diceva Pietro, perché i nuovi macchinari hanno comportato aumento di esuberi di personale, però abbiamo anche creato le condizioni con la mobilità, con qualche nuova attività, eccetera, di ricreare le condizioni perché l'azienda si rimettesse in moto. Dicevi il discorso era meglio una volta o era meglio adesso? Io parlando proprio stamattina a un corso che mi hanno invitato gli amici della CISE, dei settori pubblici di sanità, qua per nuovi delegati di luoghi di lavoro, quindi giovani sostanzialmente, e sostenevo una cosa. Primo, che comunque il delegato, il rappresentante sindacale, ha il dovere, non il diritto, il dovere di essere un buon lavoratore e dare esempio. Con questo non ho mai sostenuto che bisogna essere dei sfaticati. Bisogna essere della gente che per avere il dovere e il diritto di pretendere dalle controparti pari lealtà e pari disponibilità bisogna affrontare i problemi e risolverli. Su Alitalia hai toccato un tasto che sono anni, non perché lo dico io, tanto non conto niente, però la soluzione dell'Alitalia è il fallimento. E dopo dal fallimento si deve ripartire di nuovo, perché così non si può andare avanti. Da qualsiasi parte politica si prenda, da qualsiasi parte sindacale si riprenda. Perché ci sono dei momenti di maturazione dei tumori e bisogna avere il coraggio, come nei corpi umani, di estrarli. Lo so che dico cose pesanti, le direi anche se fossi ancora un dirigente sindacale. Perché quante volte abbiamo affrontato i problemi, io non sai neanche tu, nel 66 la Marzotto aveva uno stabilimento fino al 66 a Pisa. Allora l'azienda... 68. Allora l'azienda si articolava con stabilimenti anche fuori, ovviamente, perché c'era Valdagno, c'era Manerbio, c'era Pisa, c'era Mortara e Brugherio, quindi parecchi stabilimenti. Io ho sempre ritenuto un dovere come sindacato, che la classe lavoratrice è una cosa importante, però se io devo fare sindacalista a Vicenza, la mia prima responsabilità non è quella di guardare il mondo. La mia prima responsabilità è quella di tentare di fare gli interessi di chi rappresento, non sulla pelle degli altri, ma il mio dovere era questo. E questa è la filosofia che comunque, siccome che anche in altre province hanno i loro dirigenti sindacali, dopo chi ha più filo, fila diceva una volta qua dalle nostre parti. E quindi abbiamo affrontato in quegli anni, cosa non appare negli annali ma poco importa, credo che le ultime vicende della chiusura di Manerbio, però erano in alternativa perché richiudendosi il mercato del tessile, con le trasformazioni che ci sono state negli ultimi 15-20 anni oltre a prima, era chiaro che se il ridimensionamento doveva essere fatto bisogna scegliere da che parte farlo. È triste, è drammatico dirlo. Però se con quello che è successo nel mondo del settore tessile, in Italia, in Europa e sta succedendo nel mondo, un'azienda come la Marzotto è ancora sulla breccia e fa ancora testo nel 2008, credo che la fase necessaria di passaggio è stata costruita in quegli anni lì. E il merito va a Pietro, ma non tanto perché è qua, perché la storia dimostra che questi sono i passaggi. E non è stato facile. Non è stato facile quando si deve andare dalla gente a dire adesso tu vai via da questo rapporto di lavoro o vai 3 mesi in cassa integrazione perché nel frattempo si creano altre condizioni. La difficoltà è stata grande perché si riguardava centinaia e centinaia di persone, però siamo riusciti a gestirla al meglio e siamo riusciti anche a creare una condizione di credibilità reciproca e di sviluppo. La questione, io mi rendo conto che sarebbe stato meglio avere una controparte chiara, però le intelligenze, il mondo ha sempre dimostrato che se vi è buon senso da parte di tutti, si affrontano tutte le sfide del mondo. Se vi è buon senso e volontà di non fare i furbi sulla spelle degli altri. Perché comunque c'è un dato essenziale. Il posto di lavoro in fabbrica, in officina, in un supermercato o all'ospedale sono cose importanti, e per mantenerle non basta dire dobbiamo tenere aperti i luoghi di lavoro se non ci sono le condizioni. Io di questo qua me ne sono fatto carico, e se ne è fatto carico molto anche la mia organizzazione, e dico anche che rispetto agli anni, fino agli anni 60, primi anni 70, passi da giganti sono stati fatti in tutte e tre le organizzazioni sindacali, pur avendo ancora dei residui che citavi prima, che è quello di una fetta di sindacalismo che è talmente fermo al passato che non vuole affrontare i momenti di verità. Però affrontare i momenti di verità consente di fare passi in avanti garantendo e tutelando i lavoratori. Fuori da questo c'è solamente la giungla, e nella giungla non ci fa gli interessi della parte più debole nel rapporto di lavoro. Allora ci vogliono delle regole, e le regole vanno stabilite e concordate tra tutti.